Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Una settimana in meno all'avvio dei playoff, una settimana in meno di partite da giocare, laddove una situazione sempre incerta in termini di qualificazione sembra lentamente risolversi, seppur con molti punti di oscura previsione. Intanto, riallacciandoci alla questione miglior giocatore dell'anno, ampiamente discussa nella puntata precedente, avevo pensato di avviare questa puntata inchinandomi completamente al re LeBron James. Infatti nella sfida contro Milwaukee alla Quick Loans Arena, la prima dal rientro di Kevin Love in campo, nonché la prima senza Tyronn Lue in panchina, il numero 23 ha giocato come di diritto per il dominatore assoluto della decade in corso. Il fatto che la stagione dei Cavaliers sia stata complessa ed eccessivamente logorante lo avevamo già dedotto. Lo stesso Kevin Love aveva gettato la maschera qualche settimana fa raccontando delle crisi di panico sofferte durante gli incontri precedenti alla rivoluzione del roster durante il mercato di metà stagione e quindi precedentemente all'infortunio che lo ha tenuto ai box piuttosto a lungo. Adesso è costretto a fermarsi anche il povero coach Liu per una serie di malesseri che non sono apparentemente circoscrivibili a cause certe, ma che appaiono, da quello che racconta, figlie di un nervosismo e di una serie di instabilità a livello personale in materia di insicurezze e tensioni. I più maligni hanno indubbiamente sorriso. Finalmente LeBron James può essere l'allenatore ufficiale in tutto e per tutto, e mi riferisco a chi ritiene Liu poco più di un pupazzo prestanome senza capacità decisionali rispetto agli equilibri di squadra. In realtà è stato proprio LeBron a dichiarare fiducia ed amore incondizionato al coach, lamentandosi di questa perdita al momento a tempo indeterminato. Sicuramente una tegola almeno morale in una squadra che sembra sempre sul punto di disintegrarsi definitivamente prima di risalire. E contro i Milwaukee di Giannis giocano una sfida perfetta, seppur sempre senza Tristan Thompson e senza un Larry Nance Jr. che aveva avuto fino ad oggi un impatto più che positivo nella squadra dell'Ohio. Per James c'è l'ennesima tripla doppia, segna 40 punti, costringe poi, a fine partita, Giannis Antetokounmpo a chiedere ed a chiedersi di fronte alla stampa come sia possibile marcare un giocatore simile in una notte simile. Domina il gioco in ogni minuto in cui calca il parquet, con un terzo quarto stellare anche da dietro l'arco. Dopo una gara del genere viene da dire: fanculo le regole pseudo-deontologiche non scritte, è lui che si merita il titolo di MVP per questa stagione. E viene anche da dirlo dopo la sfida domenicale di Westbrook ed OKC nel campo di quella che appare la squadra più in forma della Lega, cioè i Toronto Raptors, soprattutto in casa. Una sfida vinta con la grinta da OKC, trascinati da quel numero 0 che ancora si trova ad un passo da una tripla doppia di media stagionale. Lo stesso che al termine dei 48 minuti in questione chiude oltre i 30 punti e si mangia, realizzativamente parlando, i possessi decisivi finali, aprendo letteralmente la difesa dei Raptors ad ogni penetrazione, segnando sempre quando conta e dimostrandosi uno dei più grandi agonisti, quantomeno negli ultimi 10 anni del gioco. Con un Westbrook del genere nulla appare impossibile, e viene da chiedersi ancora di più come sia possibile non calcolare questo uomo, assolutamente un uomo in missione come lui stesso si definisce, per la corsa al titolo di migliore, dopo le lodi unilaterali ricevute la scorsa stagione. Per Oklahoma il terzo posto appare alla portata per quanto riguarda ovviamente la classifica di conference, ma il calendario restante parla di una serie di sfide difficili con squadre con record vincenti, sfide tra l'altro anche in trasferta piuttosto complesse, come quella avvenuta in quel di Boston martedì notte, una partita dove Westbrook e compagni perdono per appena un punto contro una squadra ancora priva di Kyrie Irving, grazie ad una tripla di Marcus Morris che suggella la W in rimorta finale per i Celtics, ma soprattutto grazie anche ad uno 0 su 2 dalla lunetta di un pessimo Carmelo Anthony. Peccato per i Thunders, perché i Portland Trail Blazers, che restano la squadra più in forma al momento ad ovest, coloro che occupano tra l'altro la posizione alla quale i Thunders dovrebbero puntare, si fermano nella stessa notte dopo 13 vittorie consecutive. Devono farlo contro Houston, il team destinato ad entrare nei playoffs da favorito con il miglior record della Lega. Devono farlo al cospetto ancora una volta di una squadra fortissima guidata da un James Harden strepitoso. Ne mette 42 il barbone, con 5 su 7 da dietro l'arco, 7 rimbalzi, 7 assist in 33 minuti, accompagnato dai 22 punti di Chris Paul. Ed allora, dopo aver visto questa ultima sfida giungendo al consueto mercoledì pomeriggio di registrazione, la voglia di ricorreggersi sulle previsioni e le analisi effettuate la settimana passata per me sfuma decisamente. Harden è senza dubbio l'MVP, c'è poco da fare. E lo è anche perché è leader della miglior squadra della stagione regolare, il che è assolutamente sorprendente se pensiamo ai ranking iniziali. James resta il miglior giocatore almeno di questa decade, con prospettive di crescita continuamente esaudite ed una forma che fa ben sperare per il futuro ovunque si trovi. Probabilmente plausibile pensare lontano dall'Ohio. Westbrook invece è un agonista strepitoso, energicamente unico, atleticamente senza senso considerando la sua elevazione e la sua rapidità al netto dei pesanti infortuni subiti in passato. In tutto questo esiste ancora una coppia di stelle incredibili come Curry e Durant, non ce lo dimentichiamo, ai quali aggiungere tra l'altro un tiratore fantascientifico come Klay Thompson. Esiste nella Lega un talento penetrativo geniale come Kyrie Irving, esistono giocatori destinati a rivoluzionare il gioco come Anthony Davis, Kristaps Porzingis, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e chi più ne ha più ne metta. Insomma, tutto sommato stiamo vivendo una discreta epoca e c'è quindi poco da lamentarsi anche per un nostalgico degli anni 90 come il sottoscritto. Torniamo alle classifiche quindi, anche piuttosto brevemente. Ad est, come già anticipato la settimana scorsa, la corsa è praticamente finita. Le 8 squadre sono praticamente già decise, almeno che non si materializzino incredibili rivoluzioni. Da vedere i posizionamenti ed i relativi incroci, complessi da analizzare considerando che tanto viene determinato dai calendari delle singole squadre in questo finale di stagione. Ad oggi Milwaukee sosta all'ottavo posto e dovrebbe incrociarsi con una Toronto che oramai è destinata a chiudere con il miglior record di conference ed anche questo incredibile alla luce del ranking di previsione ad inizio stagione. Cleveland, Indiana, Washington e Philadelphia ad oggi hanno tutte e tre più o meno lo stesso record. Qualsiasi modo in cui si risolva la bagarre sarà decisivo per gli equilibri di conference del mese venturo. Restiamo quindi curiosissimi alla finestra. Ad ovest, Houston e regina. I Warriors sono destinati a vivacchiare fino all'inizio della post-season. Intanto regalano vittorie importanti a squadre come San Antonio, che seppur ancora senza Kawhi Leonard, che a questo punto è lecito nutrire ulteriori dubbi su un rientro di questo giocatore che era stato sbandierato come certo la settimana scorsa, risalgono in sesta posizione. Fuori dalla griglia spingono Denver e Los Angeles Clippers, che però appaiono distanziate di almeno due partite dall'ottavo posto, dove ad oggi sostano i Jazz, con i Minnesota Timberwolves a serio rischio esclusione in una stagione implosa dopo la perdita per infortunio di Jimmy Butler. Secondo me comunque i giochi sono ampiamente fatti anche ad ovest, con Spurs e Utah dentro, soprattutto con gli Spurs e la loro esperienza come minaccia potenziale per gli Warriors o per coloro che arriveranno terzi, verosimilmente i Portland Trail Blazers. Di OKC abbiamo già detto e non mi stupirei però di vederli chiudere quinti o sesti addirittura, vista la difficoltà del calendario che li attende. Resteranno in ogni caso i miei outsider preferiti per i playoff, augurandomi di ritrovarli almeno in semifinale di conference con una delle due grandi squadre di conference. Andiamo invece a vedere brevemente le classifiche a rovescio, con una piccola analisi sulle peggiori, quelle squadre che sicuramente saranno ampiamente fuori dalla parte più entusiasmante della stagione. Quelle che puntano tutto sull'estate con la prospettiva di ricostruire o ripartire. Allora, premetto, non sono un grande esperto né un grande osservatore di talenti futuri, quindi non mi addentrerò in questioni relative alle possibili scelte del prossimo draft, anche se ci troviamo di fronte, inevitabilmente parlando delle escluse, a squadre che si sono sfidate a colpi di tanking per ottenere il peggior record della Lega ed accaparrarsi la prima scelta assoluta o giù di lì del prossimo draft. In realtà vorrei brevemente delineare per ognuna delle escluse il livello di futuribilità prossimo e la possibilità o meno di vederle un tantino più protagoniste tra 12 mesi. Iniziamo con la Western Conference, guardando a chi resta fuori e quindi escludendo al momento dall'analisi i Denver e i Clippers, che sono, come già detto, ancora in corsa in teoria. Zero speranze a mio avviso per Sacramento, squadra derelitta a livello di roster per come la penso, destinata a modificare il più possibile con la speranza di ottenere qualcosa di sorprendentemente futuribile, roba da poterne cambiare gli equilibri attraverso il prossimo draft. Stesso discorso per una Memphis che potrebbe almeno ripartire da quel Matt Conley che anche quest'anno ha giocato molto poco, con la possibilità però di vedere andar via Marc Gasol, stanco probabilmente di passare stagioni anonime come la ultima fuori dal radar di interesse minimo nella Lega. Phoenix invece sta seriamente lottando per conquistare l'ultimo posto, quantomeno il peggior record assoluto, malgrado il talentuoso Devin Booker in squadra, probabilmente con l'augurio di poter offrire alla sua stella una prossima stagione finalmente un minimo di riscatto, piuttosto che doverne raccogliere la presumibile richiesta di cessione per passare la stagione 2019-2020 in qualche altra città. i Suns devono scegliere bene, c'è poco da fare e puntano effettivamente tutto su quello. Booker è un giocatore che non può essere sprecato a livello di talento e potenziale, ma lasciarlo per altre due stagioni in un sistema simile significherebbe sacrificarne la futuribilità nel firmamento della Lega. Qualche speranza in più la vedo invece per Dallas, ammettendo il forse addio definitivo del grande vecchio Nowitzki, che per la verità non rappresenta una zavorra, ma bensì un valore aggiunto da utilizzarsi con il contagocce come è giusto che sia. Harrison Barnes sarebbe preferibilmente il terzo violino di questa squadra piuttosto che la prima opzione offensiva come appare adesso, ma tutto sommato il buon esordio nella Lega di Dennis Smith Jr. lascia ben sperare. Con una buona scelta ed un dignitoso innesto a livello di starting five, questa squadra può tornare a farsi insidiosa, seppur sia complesso lottare nella Western Conference e seppur tutto il mondo sia convinto che l'ottavo posto nei playoff del prossimo anno sia già prenotato dai Los Angeles Lakers, visto che la loro prossima free agency si attende come scoppiettante e clamorosamente trasformante un roster già futuribile, per la verità già più che dignitoso in prospettiva. Certo, sarà importante che Brandon Ingram prosegua in una maturità che dovrà investire anche il giovane Lonzo Ball, laddove paradossalmente il più pronto dei ragazzini in squadra appare quel Kyle Kuzma che rappresenta l'autentico steal of the draft della scorsa stagione. Non credo che resteranno in squadra né Isaiah Thomas, né Brook Lopez, né Julius Randle, anche se quest'ultimo continua a far registrare numeri importanti. Inutile proseguire nel fare i soliti nomi di potenziale approdi che ben conosciamo e che rivoluzionerebbero da subito le prospettive della squadra di Magic Johnson con la loro semplice aggiunta a qualsiasi resti il roster disponibile. E comunque occhio, perché presumibilmente l'attuale seconda squadra di Los Angeles avrà modo di partecipare con una scelta possibilmente importante al prossimo draft, magari con il sogno di replicare la pesca miracolosa fatta con Kyle Kuzma. Guardiamo rapidamente ad est. Charlotte e Detroit appaiono come due squadre basate su due coppie apparentemente solide, ma devono però solidificarne effettivamente il contorno. E mi riferisco, quando parlo di queste due coppie, al front court di Detroit, cioè Blake Griffin e Andre Drummond, e dalla tipica coppia guardia centro Kemba Walker, Dwight Howard di Charlotte. Personalmente ho seri dubbi sugli Hornets e la possibilità di ritrovarli completamente rivoluzionati effettivamente c'è. Nel fondaccio Atlanta è la peggior squadra della Lega, o quantomeno se la lotta con Phoenix al momento, e spera profondamente in un ottimo posizionamento di scelta. Poco appetibile come approdo, clamoroso il testacoda operato nel giro di pochissimi anni, disintegrando la squadra che fece gridare il mondo alla sorpresa assoluta di qualche stagione fa. Benissimo non stanno neanche gli Orlando Magic, che però presentano al momento una struttura di squadra un minimo più determinata, con un Aaron Gordon atteso ad un ulteriore salto di livello. Dovessero pescare bene e mantenere il livello di squadra attuale, potrebbero sperare di risalire, quantomeno di lottare per l'ottavo posto potenziale del ranking ad est, considerando che stanno tankando clamorosamente almeno da metà stagione. Tanking selvaggio anche per i Brooklyn Nets, che hanno dimostrato di aver giocatori e numeri per giocarsela con chiunque in questa regular season. Squadra operaia, capace di sorprendere a tratti, di quelle che potrebbero risvegliarsi l'anno prossimo con equilibri rivoluzionati, sicurezza nei propri mezzi sbocciata e qualche risultato in più. Per le nobili decadute Chicago e New York il discorso appare un attimino diverso invece. Partiamo dai Bulls. Lauri Markkanen si è dimostrato una scelta preziosissima e rappresenta uno dei totem per il futuro della squadra. L'altro è inevitabilmente Zach LaVine, per il quale c'è assoluta curiosità da parte mia di rivederlo in una stagione al completo con responsabilità elevate. Anche e soprattutto Chris Dunn, inoltre, ha dimostrato di poter tenere il timone di una squadra giovane, con discrete capacità da all around. Allora serve seriamente una scelta intelligente nel draft ed un investimento massiccio nella free agency, anche perché l'uscita senza poco o niente in cambio di Nikola Mirotic a metà stagione può far pensare ad una volontà di voler liberare anche spazio salariale, e tutto sommato questi Bulls potrebbero non essere così distanti da una stagione dignitosa a venire con un paio di scelte azzeccate in off season. New York invece poteva seriamente rientrare nella top 8 già da quest'anno, prima del bruttissimo infortunio occorso alla stella Kristaps Porzingis, un infortunio per il quale è necessario considerare bene sia i tempi di recupero del giocatore che lo stato futuro per una personalità simile con una fisicità simile e quelle caratteristiche. New York è squadra che ha deciso di gettare la spugna con la dipartita del Lettone, come già detto, ma che conserva al suo interno giocatori più che dignitosi a livello anche operaio, come Enes Kanter e Jaren Jack, e capace di schierare un consacratissimo Tim Hardaway Jr., oltre agli ottimi attratti Courtney Lee e Michael Beasley. Inoltre è arrivato a metà stagione un Emmanuel Mudiay che potrà dire la sua l'anno prossimo, magari in alternanza con quel Frank Ntilikina che a volte ha deluso, ma che è sicuramente da osservare con un anno in più sulle spalle. In più si tratta sempre del principale mercato di America, mi riferisco a New York, di una delle città più affascinanti del mondo, con una tradizione cestistica da far girare la testa. New York potrebbe essere approdo appetibile per grandi free agent destinati a raccogliere una sfida che appare ad oggi incredibile, ma che un giorno dovrà pure essere vinta, cioè quella di riportare la grande mela ai vertici della Lega. Una cosa che non possiamo far altro che augurarci anche noi. Benissimo, anche questa settimana NBA Week giunge al termine. Appuntamento rinnovato per la prossima. Seguiteci comunque nel frattempo, se volete, anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week. Per ascoltarci gli appuntamenti settimanali sono sempre i soliti: tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni. Right.